State per ascoltare La stanza del nonno. Ma che modo è di iniziare così? Ma no, avevo preparato la sigla. Dici che oggi non c'entrava niente quella? Ah, quindi da solo la regia ha deciso... No, no, per carità, io non dico niente, ma insomma... Cioè, mi state dicendo che oggi la stanza del nonno ha un'anima rock? Ebbè, benvenuti allora, benvenuti nella stanza del nonno. Oggi la stanza del nonno, voi sapete che insomma ormai è il jazz è quello che mi guida, no? Sulle scelte musicali, però non è che il jazz è l'unica cosa che io ascolto. Oggi c'è una giornata particolare, con delle temperature particolari, e probabilmente abbiamo bisogno di liquidi e sensazioni varie, ma... Benvenuti nella stanza del nonno, Edith al microfono con voi. Siamo insieme. Non sono due ore complete, ci sarà probabilmente, se riusciremo a collegarci, una incursione. Stiamo preparando anche alcune ospitate particolari. Non so se vi dico due nomi, no? Gigi Marziali e Antonio De Robertis. Vi ricordano qualcosa? Forse alle persone che hanno più o meno la mia età qualcosa gli viene in mente. Se vi dico un programma che si ascoltava quando le radio private ancora non c'erano, le radio libere, Supersonic, Onic, dischi a Mach 2. Ebbene, è molto probabile, direi quasi certo, che due dei conduttori storici di questo straordinario programma, che ha aperto le porte al modo di fare musica e radio in un certo modo, non saranno solo ospiti qui nella stanza del nonno, ma saranno i conduttori. Diciamo che non li intervisto, vorrei sentirli far musica, che è la cosa più bella. Bene, la cosa la stiamo preparando, avverrà tra qualche giorno, tra qualche puntata, forse addirittura dalla prossima, non sappiamo bene. Perché anche noi abbiamo una vita. Oltre il mixer. E quindi la vita decide per noi le varianti. Benvenuti, spero che il gruppo di Facebook, il gruppo di Rai Stereonotte, sia in qualche modo all'ascolto. Se non lo è, vi vado ad avvisare tra poco. E visto che siamo in tempo di guerra, non lo dico soltanto per ricordarvelo, oddio sì è vero, c'è qualcuno che sta in guerra da qualche altra parte del mondo, ve lo dico soltanto per far così, per spremervi le meningi affinché vi inventiate qualcosa per risolverla questa questione. A volte basta una persona sola a cui viene un'idea e capisce quello che bisogna fare. Qualcuno ha scritto qualche tempo fa e l'ha poi anche... suonata dal vivo con delle performance straordinarie che potete guardare dovunque perché sono diventate un film, ha scritto un brano che si chiama Life During the War Time. È ovvio, i Talking Heads. We'll be right back. Talking Heads. Heard about Detroit. Life during the wartime. You wanna know not to... Quando guardate questo tizio, Somebody see you up there. Dave Byrne. Cominciare la performance di questo concerto. Niente, ne rimarrete catturati, è straordinario. Lo è ancora adesso, dopo tanti anni. Talking Heads! What a night school! But I'm a dip in the sky! Through the roadblock, we've been knitting with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines, know that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, or in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now, but what I look like. You make me shiver, I feel so tender. We make a pretty good team. Don't get exhausted, I'll do some fighting. You wanna get you some sleep. Burn all my notebooks, oh, back to my notebooks. They won't help me survive. My chest is aching and heavy, burns like a furnace. The burning keeps me alive. Now! fate il casino sul palco, questa è la stanza del nonno. La vera stanza del nonno. E quando sentivamo questo brano, chi mimava l'organo, chi mimava la batteria, chi mimava il chitarrista, chi mimava il cantante, cioè sempre io. I ragazzi di Osaka si siano molto divertiti quella notte e credo che abbiano ascoltato tantissimo. Ah, certo. Sì, perché dopo il casino a un certo punto bisognava così immergersi in un attimo di calma. E sempre un titolo che ha qualche cosa a che vedere con la realtà. Child in Time, Deep Purple. Un branco di capelloni che che in realtà erano musicisti straordinari, preparatissimi. Mi ricordo che passavamo dei pomeriggi a casa di una compagna di scuola a sentire questo album a tutto volume, senza fare altro, e ascoltavamo e basta. Crying for you day and night. momento di interromperli, no? Grandissimo brano è questo dei Deep Purple, una formazione quella che li rese straordinari, il gruppo era al massimo della sua potenza sonora, vocale e anche così costruttiva dei brani. Quanto si sono divertiti quei ragazzini a Osaka? Vabbè, poi non c'erano solo ragazzini, di sicuro. E loro sapevano, registrandolo, che questo disco sarebbe passato alla storia? Ma... noi siamo nella stanza del nonno. Sweet child in time, you'll see the line is drawn between the good of us and the bad of us. See the blind man shooting at the world, the bullets flying, they're killing everyone. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been hit, you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the chiesto che quel botto che si sente in fondo fosse un petardo, no? Oppure qualcuno che aveva acceso l'amplificatore della chitarra in ritardo. Si sente una cosa che boom, oppure qualcuno che ha chiuso la porta in un palasport. C'era un certo riverbero, no? Si sente questo bang. Comunque ho visto gente che si è messa la parrucca e si è messa a scuotere la testa al ritmo del chitarrista, sì, l'ho vista. C'era, eh? Deep Purple! E questa è la stanza del nonno, questa era Child in Time, tratto da questo splendido album dal vivo che si chiamava e si chiama tuttora Made in Japan, e noi andiamo a sentire dei fuorilegge, perché... e questi sono... sono dei fuorilegge che fanno un buco nell'acqua, però. Waterhole. We'll be right back.

mitica copertina degli album, questa era mitica perché loro si vedevano in una zona desertica, chiaramente era stata tutta costruita, e avevano fatto la pipì su un monolito e la pipì praticamente aveva disegnato le loro sagome praticamente, no? E Yuhu da un bellissimo album, e questa purtroppo per voi è La stanza del nonno. Sì. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Non so se annunciando questi brani voi vi fa rodere, nel senso, li sappiamo, no? Li conosciamo. Io sono qui però, non vi mollo, sono qua. I see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Se la cantano e io che cosa devo fare? Sì, sto qui, ma non è che posso parlare sulla musica come piace a me, no? Emerson, Lake and Palmer. Anche questa è una bellissima copertina, eh? Strana. Undercover, you could even be the man on the moon. Wanna be the player? Do you wanna be the string? Let me tell you something. It just don't mean a thing. You see, it really doesn't matter when you're buried in disguise by the dark gloss on your eyes. Though your flesh has crystallized, still, you turn me on. Still, you turn me on. Lying in my bed. Wanna be color cover magazine, create a scene. Let me tell you something, you just couldn't be more wrong. You see, I really have to tell you that it all gets so intense from my experience. It just doesn't seem to make sense. Certa gente avesse imparato cos'è il bebop, cioè quello bebop. Un momento, Jimmy, un momento. Il bebop è quel rumore che fa lo sfollagente quando viene sbatacchiato sulle capocce o sui corpi della gente. Bebop. Fa male, eh? Dedicati a tutti quei ragazzi, dedicato Jimi Hendrix, Little Wing. Well, she's walking through the clouds to the circus mind that's running wild. Butterflies and zebras are moving and a fairy tale. That's all she ever thinks about, riding with the wind. Lord, when I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives me free. It's all right, she says it's all right. Taking a thing you want from me. Parti, è un bel po', assolutamente. È come se ogni tanto qualcuno si dimentica che è esistito uno che si chiama Jimi Hendrix. Ma c'è pure questa è dedicata, lo so, è dedicata a quel signore di cui parlavo prima, è per Gigi Marziali. Eddie Van Halen, Van Halen, sentiamo che roba fa. Thank you. At this time, we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. Oh, ma stasera tutta gente seria. Eh sì, ho nominato il bebop. Questa era la voce di Charlie Parker in persona. Dalla stanza del nonno, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Max Roach, Bud Powell. Salpinas, Salpinas, Salpinas, Salpinas, Salpinas, Salpinas, Salpinas. Salpinas, Salpinas, the name of the song. Salpinas, Salpinas. La batteria, questo è proprio il bebop. Botte da orbi, eh? Dizzy Gillespie, una persona che ho conosciuto tra l'altro. Con quelle one shot. Yeah. L'incisione non è una di quelle che si sente con la perfezione tecnica, perché è stata registrata addirittura col magnetofono di Charles Mingus messo sul palcoscenico. E questo è il signore che quando entra e non fa le bizze come ha fatto stasera perché voleva musica rock, è il signore che suona la sigla della stanza del nonno, Bud Powell. Un quartetto straordinario, i maggiori esponenti della musica bop di quell'epoca, in una serata dal vivo dove contemporaneamente c'era un importantissimo match di box e quindi la sala non era completamente piena e Charlie Parker non arrivò in tempo, tant'è vero che c'è tutta la prima parte di questo concerto che viene fatto da Bud Powell. Aspettavano Charlie Parker che arrivasse. In realtà il poveretto, arrivando al concerto, per una dose di droga si era venduto il sassofono. prima di arrivare al concerto ne comprò uno così, quello che trovò, completamente coperto di plastica bianca. Sì, ma era Charlie Parker e poteva suonare anche dentro una cannuccia. Altre volte lo cercavano e lui stava dormendo sotto il palco, quindi il personaggio... Insomma, arrivò e cominciarono a suonare. Naturalmente Dizzy si era un po', diciamo così, arrabbiato. Lui era preciso. E diceva: Charlie è fuori, ma come suona lui, nessuno. Ed ecco Charles... Max Roach, chiedo scusa. Grandissimi, grandissimi, straordinari. La Massey Hall impazzita. Oh. E qui gli stessi ragazzi in studio, però. Beh, ci voleva, sì. Ancora Bird e Diz, cioè Charlie Parker e Dizzy Gillespie insieme. We'll be right back. c'è Enrico di Troia, cioè Edith. Questa sera la sigla ha deciso di non entrare, ma ha detto: senti, io voglio sentire un po' di musica rock stasera perché mi gira così. Non si deve fare altro che assecondare. Anche perché la regia capisce di musica, ne capisce abbastanza, eh? Ne passa parecchia, è buona. Noi stiamo preparando in questo periodo anche l'arrivo di musicisti come Mauro Verrone, che conoscete. E di Mauro Verrone presenteremo un nuovo album che è presto in uscita e tra pochi giorni sarà presentato alla Casa del Jazz. E avremo modo di ascoltare qualche brano. Chissà che forse non ci faccia una sorpresa anche stasera. Siamo anche sul DAB e online, dove ci state ascoltando, e spero che il nostro segnale vi giunga pulito, cioè che la musica sia potente. Il meno compressa possibile, diciamo. Bentrovati, chissà che cosa state facendo in questo momento, che orario della giornata è, qual è il vostro andare, il vostro fare, state guidando? Siete a casa? State uscendo per? State guardando un tramonto? No, forse il tramonto è già andato, io purtroppo da qui non lo vedo. Sono passate a trovarci due amiche poco fa in studio, ci fa molto piacere. Sono passate con le loro motociclette e sono scappate via. E quindi a questo punto io penso che ascoltare una ragazza che canta non mi dispiacerebbe affatto. Eh? A voi? A me no. No, i signori di prima sono già... Sì, ragazzi... No. A volte i musicisti sono invadenti. Io ho annunciato una ragazza... Cioè, già siete entrati prima tentando di vedere se poteva essere il vostro sound, no? Accoppiabile con il drumming di Max Roach, e avete visto che avete dovuto cedere il passo a un grande batterista. Allora, sì, lo show è mio, è questo. Ah. Vabbè, vi lascio perché mi siete simpatici. cacciara che facevano questi in tre. Sì, cantante straordinario. Prima nei King Crimson, prima ancora chissà dove, non vi ricordo. Straordinario chitarrista e cantante. Un pezzo dei King Crimson cantato da lui non apprezzo. Questo disco sembrava veramente una grande cacciara, invece alla fine, negli anni, ascoltandolo, riascoltandolo, è il disco che ha avuto, diciamo così, una maggiore coesione tra i brani. Cioè, sembrava veramente un... E poi c'era una delle edizioni che praticamente non finiva mai, la traccia finale, quella che portava il braccio alla fine del disco, continuava con questo suono che avete sentito all'inizio. Quale? Aspetta, ve lo faccio risentire. Questo suono qua era, dunque... E lo mettevano all'infinito, questo qua. E finiva così il disco. No, adesso ricomincia. No, per carità. No. Ho detto che voglio sentire una ragazza. E voglio sentire una ragazza. Oh. Janis Joplin. Dalla stanza del nonno. A woman left lonely. The crazy things, yeah, on lonely occasions, a simple conversation with a new man now and again. When a good thing's coming to an end, and when she gets lonely, she's thinking about me. She knows he's taking her for granted, but she doesn't understand. Eccola, sta entrando in studio. Non potrebbe essere un lui? Questo dipende. È noi non lo vediamo ancora, c'è ancora un'ombra che cammina. Lei prima era Janis Joplin. E questa è sempre la Brian Seltzer Orchestra, che mi sta facendo impazzire, perché è un disco che avevo messo da parte, ma radiofonicamente è divertentissimo. Poi arriva il momento giusto a cambiare l'atmosfera. Grazie alla Brian Setzer, insomma, mi considero fortunato perché è un'orchestra che mi può consentire di parlare un po' con voi. Intanto saluto tutti coloro che mi stanno mandando piccoli messaggi, fotografie, dove sono. Fotografie della radio, che è la cosa più carina, no? Sono nella loro automobile e la radio irradia, quindi è segno che siete in compagnia. Io sono in buona compagnia, cioè nella vostra. Allora, a questo punto, che cosa hai preparato? Era la stanza del nonno che è entrata e ha ballato per voi. Wow. Non vi dico quello che è successo. E lo so, quando si fanno queste entrate. O sono baffi. O sono peli. E siccome a noi i pelli ci piacciono, e anche la musica di un certo tipo ci piace, Roadhouse Blues, The Doors. On the road you held upon the wheel. Yeah, the back of the roadhouse, I got some fun to Hong Kong, Conca, Danta, Asia, Kona, Mata, Bapa, Lula, Lichao, Bapa, Lichao, East Hong Kong, yeah, right. Your vows, give up your vows, save our city, save our city, and now, and I woke up in the morning, I got myself a beer. Signori, signore e signori, the moon to the drugs market. Non so, per un attimo ho perso la linea, ho perso il contatto con voi, non so che cosa sia successo, ma in ogni caso posso dirvi esattamente che cosa sta succedendo in questo istante. Siamo entrati nei solchi di un disco di una certa Carla Bley. E come ho sentito questa intro, ho detto no, questo adesso lo devo mandare in onda. E il brano si chiama Loans. Thank you. Del tutto all'improvviso si entra in una situazione musicale piuttosto romantica, no? si è partiti con il rock, ma torneremo sicuramente al rock prima di chiudere. Però in questo momento è arrivata questo certo modo di suonarlo che mi ha immediatamente catturato. Spero anche voi che siete all'ascolto avete subito questo fascino. Stiamo comunque parlando di una grandissima musicista contemporanea che si chiama Carla Bley. Che però, ascoltandola, mi è venuto in mente che potevo al contempo farvi conoscere un musicista italiano che non si sente molto spesso in radio, anzi quasi mai, che noi abbiamo il piacere e di conoscere e di avere come amico e di avere anche come musicista qui alla Stanza del Nonno. Lui è Sergio Lucchetti e la canzone che mi è rimasta dentro è ancora dentro. Sergio Lucchetti. Che rimane di quel sapore, che rimane di quel colore, di quegli occhi così lontani, resta almeno fino a domani. Non la senti la voce, ma ti respiro e mi piace. Strada lunga, strada di mare, vento forte, case deserte, nel mio sogno ti vorrò aspettare. Lascerò tutte le porte aperte, non la senti la voce, ma ti respiro e mi piace, e tu sei dentro. Sapessi quanto mi sei entrata dentro, quando mi sbatti in faccia quel tuo amore, quei tuoi occhi, che poi lo vedi se mi tocchi. Non riesco più ad andare perché sei dentro. Sorriso che mi sei caduto dentro, come una stella in fiamme che precipita sul mare. Tu guarda me, fatti guardare, io sono come te. Perché sei dentro, sorriso che mi sei caduto dentro,

3791-880-880 per i vostri messaggi. Abbiamo ancora meno di 5 o 6 minuti. Vorrei farvi sentire quello che avrei fatto vi ascoltare vi se avessi avuto vi molto più tempo vi questo lo ascolteremo una delle prossime volte. È un trio composto da Michel Petrucciani e un organista, anzi forse un duo. Aria prima con Elefante Bianco, vabbè, era un commento alle notizie. Abbiamo ascoltato i Talking Heads, Jimi Hendrix. Un certo Van Halen. Dunque, c'era un gruppetto italiano che volevo farvi sentire, si chiamano ancora i Sei Chance, ma un gruppo che ormai si è sciolto da un bel po' di tempo. E la canzoncina che volevo farvi ascoltare era appunto questa. Vediamo un po' se parte. Parte? Sì, a mappa se parte. No, no, no, no, no, no, no, no, no. La devi mettere qua, così, ecco. No, no, tu mi devi stare a ascoltare, cioè mi devi stare a sentire. No. No, voi due dovete uscire un attimo. Michelle, devo sentire i Sei Chance, Michelle. Ho 4 minuti. Devo chiudere la trasmissione. Sono diventati 3. Oh, mamma mia. Eccoli. Sentiremo anche loro. Domani 2 ore, stremati dal tango, ci tocca restare in palestra. Ma la volessimo, erano i Sei Chance, li ascolteremo la prossima volta. Corto e aggiungo quant'altro che resta. E vediamo se questo è un brano che potrebbe essere un brano che potrebbe chiudere la trasmissione. Sì, in fondo, sì, perché no? Sì. Allora Edith, vi saluta. Tra 5 minuti partirà di nuovo la nostra programmazione. Tra poco arriverà qualcuno. Io per il momento vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi. Verso la musica rock. Vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo qualche incursione pomeridiana per motivi di sostituzione o perché qualcuno dice guarda io ho un problema, non posso venire in trasmissione. Può succedere, siamo esseri human. Grazie a tutti. Un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato. Per quanto riguarda noi, ciao! pretends to pick a target. He goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone, the armies of the road, salvation and a load and a cup of tea. Aqualung, my friend, don't you start away uneasy. You poor old sod, you see. Sei all'ascolto di Samarkand Digital Network. Okay, Kaya. I'm not an alcoholic, but I'm always so tired. I'm always bored and always feel kinda bad. I can't seem to get no sleep at night. He used to call me every night this time. His hands cold, smelled of garlic, but looked like a vampire. To be honest, they were not that nice. How I'd like to get his scent off of me. He used to call me every time, call me every time he need to come and put his head, come and put his head, come and put his head on me. Time for lunch. Bum-da-dum-dee-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis. It's at the time that he was out on his own. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Samarkand Digital Network, Radio Samarkand. kissing, there's kissing. All the loving is loving. All the kissing, there's kissing. Before I met you, baby, never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you.